140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. La nostra puntata di oggi di 140 caratteri è dedicata a un cantante e autore che festeggia 20 anni di carriera. Warner Music, Milano. Max Venti, gli amici di sempre, le grandi voci italiane per ripercorrere una carriera senza esitazioni. Max Pezzali, per lui il tempo non passa. Il mio termine di paragone è il contatto con il pubblico, no? Cioè io è sempre lì che riesco a confrontarmi con la realtà. Perché se fosse per me questi 20 anni sarebbero, cioè, mentalmente per me sono come se fossero 2, cioè mi sembra veramente pochissimo il tempo passato, benché mi renda conto che poi riascoltando le canzoni c'è tanta roba là in mezzo. Però ecco, io mi rendo conto quando mi confronto col pubblico che c'è una veramente un mondo, il mondo è cambiato nel frattempo, al punto che quando vedo che c'è pubblico di miei coetanei che ormai hanno figli che ascoltano le mie canzoni però senza avere mai vissuto il mondo raccontato in quei testi, allora lì mi rendo conto che il tempo insomma è passato veramente e mi rendo altresì conto che a volte la cronaca contingente dei pezzi, cioè delle canzoni, quindi il mondo che circonda le canzoni nel momento in cui le canzoni vengono scritte, poi diventa secondario, cioè il fatto che una canzone racconti di cose, oggetti, fatti e avvenimenti di un periodo specifico, poi diventa ininfluente, cioè paradossalmente 20 anni dopo ci sono persone che quel mondo lì non l'hanno vissuto ma che cantano la canzone ugualmente, e questo è la magia, no, delle canzoni. Non ho nessun rimpianto, nessun rimorso, soltanto certe volte capita che appena prima di dormire mi sembra di sentire il tuo ricordo che mi bussa e mi fa male un po'. Come dicono tutti, il tempo cura possibile. C'è sempre una vena di nostalgia nei tuoi testi, c'è sempre così un retrogusto dolce amarognolo. Ma a me piace sempre molto raccontare un po' la malinconia del tempo che passa, no? Cioè senza fare citazioni troppo dotte, però insomma il tempo che passa è una degli elementi chiave, no? Che scatenano determinate emozioni nell'animo umano, perché il tempo che passa è legato necessariamente alla caducità della vita, insomma a cose che ci riportano alle nostre paure primarie, no? E quindi naturalmente ci scatenano delle reazioni per certi versi abbastanza prevedibili e naturali, però io credo che sia l'essenza della nostra vita, no? Il continuare. Noi abbiamo la malinconia, è un sentimento che nasce dalla consapevolezza di sé, dalla consapevolezza appunto del passaggio e della non della non possibilità di persistenza di quello che noi viviamo, no? Cioè per ogni passaggio di età guadagniamo qualcosa ma perdiamo inevitabilmente qualcos'altro. Non c'è storia in questa città, nessuno si diverte mai si divertirà, lascia perdere tutta questa gente e non credere, il te non gli importa niente. Voglio fare un saltone indietro, voglio partire da Pavia. Devi solo credere che un giorno te ne andrai di qui. E andarsene da Pavia, e andarsene da dove? Beh, il problema grosso è che andarsene, cioè esistono luoghi coi quali si stabilisce una sorta di schiavitù, di rapporto di come si potrebbe dire, di interdipendenza a vita. È un po' come il capitano Willard in Apocalypse Now, no? Quando racconta: quando ero nella giungla non vedevo l'ora di ritornare a casa in America, no? Nell'Ohio da cui proviene lui, appunto, nella storia. E quando ero a casa non vedevo l'ora di ritornare nella giungla. Cioè c'è una sorta di fuga costante di chi arriva da questi luoghi e poi però quando sei lontano senti di appartenere in maniera indissolubile, cioè di avere un rapporto indissolubile con questa città. Io credo di avere un rapporto estremamente conflittuale ma di grande amore con la mia città. Infatti me ne sono sempre andato ma poi sono sempre ritornato, no? E quindi vuol dire che c'è qualche sorta di magnetismo strano che ci tiene legati. Anche perché solo la provincia consente di avere amici come Cisco, il bar di riferimento, il Jolly Blue, come, cioè, che può essere il bar Mario di Ligabue o il bar Sport di Stefano Benni. Perché la provincia, a causa del numero ridotto di abitanti, cioè il luogo piccolo, non permette di avere la nicchia, cioè non puoi vivere di nicchia, tra virgolette. Se sei punk, se tu eri punk a Milano, potevi vivere e frequentare prevalentemente punk. Se tu eri punk a Pavia, per stare qui tu avresti dovuto al massimo frequentare quattro persone. Quindi cosa succede? Che devi per forza interagire con gli altri, con chi è fuori dalla tua tribù. Ma è un vantaggio perché ti obbliga a mediare con persone estremamente diverse da te, perché gli spazi di coesistenza sono relativamente stretti. Quindi tu puoi anche essere hipster, ma devi essere in grado di reggere il tuo stile d'abbigliamento, il tuo stile di vita in condivisione con un anziano di 79 anni che gioca a carte, un muratore di 28 che parla malapena l'italiano e che quindi, insomma, col quale ti devi relazionare. Ecco, ti obbliga a capire, ad avere dei linguaggi più comprensibili e a relazionarti con tutti e non solo con quelli che ti piacciono. In tutto quello che faccio e non faccio ci sei, mi sembra che tu sia qui. A proposito di relazioni, le donne. Sì. In Max 20 viene fuori un po' una carrellata dei sentimenti che hai dipinto. Ne hai dipinti tanti, ma agli inizi soprattutto c'era questa adorabile imbranataggine. Ma io credo che nelle canzoni si cerchi sempre, per una serie di ragioni, di dare il meglio di se stessi, no? Perché chiaramente, specialmente nelle canzoni, cioè io lo dico sempre, non crediamo mai alle canzoni a 360 gradi, perché uno cerca di dare il massimo, no? Cerca di dipingersi un po' migliore di quanto non sia, perché dice in fondo è una canzone, cioè, però ecco, e quindi in genere diciamo nello schema canzone c'è la tendenza a voler enfatizzare gli aspetti, ma perché credo che sia normale, enfatizzare gli aspetti così aulici e simbolici, e magari evitare di approfondire quelli poco spettacolari. Ecco, io ho sempre cercato invece di affrontare la cosa in maniera contraria, cioè di essere abbastanza diretto, e io credo che sia una chiave, no, del un po' di tutto quello che ho fatto e che ho scritto. Il protagonista delle canzoni è sempre uno che comunque sa di non essere all'altezza di quello che il mondo si aspetta da lui, ecco. E credo che sia una buona caratteristica dei nostri tempi, perché chi racconta di essere l'uomo che non deve chiedere mai spesso mente, perché spesso è inadeguato, peggio di chi invece lo ammette. Anche perché voi, e parlo di te e di Mauro, siete arrivati, avete fatto irruzione più o meno nel 92-93. Sì. Uscivamo dagli anni 80, anni in cui tutto sembrava possibile, tutto sembrava a portata di mano, entravamo negli anni 90 in cui cominciavano a affacciarsi incertezze, dubbi, problematiche. E voi avevate questa distonia coi tempi, nel senso che comunque proponevate una musica leggera, frizzante, simpatica, se ne sentiva già il bisogno e già la nostalgia. Sì, sì. Beh, ma io credo che poi fosse quella credo che sia stata quella la chiave del gradimento di quello che abbiamo fatto. Cioè, c'era una sorta di contrasto molto forte tra l'arrangiamento, la musica fatta quasi ancora come se gli anni 80 non fossero finiti, con quel suono un po' elettronico, un po' leggero, un po' italo dance per certi versi, e poi con dei testi che non c'entravano assolutamente, come se qualcuno avesse tentato, che poi era quello che noi eravamo delle persone che erano convinte di fare una cosa assolutamente in sintonia con i tempi e con il mondo degli anni Ottanta. In realtà non ci rendevamo conto che non era quello, era quello che pensavamo noi, ma non era quella cosa lì. Cioè, infatti, fu difficile all'inizio essere capiti anche dai discografici, perché dico, ma che cavolo stanno dicendo questi nei testi? Ma che cosa c'entra sta cosa? Non comunicavamo un modello positivo e vincente, noi comunicavamo un modello che eravamo convinti che fosse positivo e vincente, ma non lo era, sempre per questo problema della mancanza a volte di prospettiva che si ha quando si vive nelle piccole città. Cioè, sei convinto di dire una cosa assolutamente normale, ma all'esterno non viene percepita così, perché dice no. E quindi avevamo un impianto vincente, da musica vincente tra virgolette, con sopra dei testi da assoluti losers, e credo che questo appunto, questa distonia di cui parlavi tu giustamente, sia la chiave di tutto. Cioè dire ma perché stai dicendo questa cosa su una canzone così, cioè che invece dovrebbe essere un inno al, appunto, il tieni il tempo, che dovrebbe essere una cosa divertente, invece mi stai raccontando che non sei capito nella tua realtà, che questa è una forma di reazione a un'ansia che, cioè, non era previsto nello schema dello scrivere canzoni dell'epoca, che uno parlasse di una roba così diversa dall'arrangiamento della produzione che aveva sotto. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Torniamo insieme a Max Pezzali nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Abbiamo citato Mauro Repetto, un eroe leggendario, perché è riuscito nella sua vita a combinarle di tutti i colori, a entrare nella leggenda scomparendo come personaggio totalmente misterioso, ma un'amicizia di quelle, un'amicizia da romanzo, da film, la vostra. Ma io credo che la forza di Mauro sia sempre stata quella di essere l'esatto opposto mio. Cioè, la cosa che ancora oggi, cioè, tipo, ci scriviamo quasi quotidianamente, no? Lui mi sottopone delle idee, delle cose, io gli do i commenti. Credo che la nostra forza sia proprio quella di essere stati sempre completamente all'opposto. Cioè, paradossalmente, quando ci siamo conosciuti ed eravamo in classe insieme, io per una serie di motivi ero l'inaffidabile, e lui era il ragazzo di buona famiglia, perfetto, promessa del calcio locale, quindi in parrocchia, uno molto bravo, terzino, non mi ricordo se sinistro o destro, comunque sempre all'oratorio, sempre ottimo negli studi, eccetera eccetera. E io invece ero il ripetente, ero quello un pochino più scapestrato in una fase della mia vita così un po' strana. E poi man mano che le cose sono andate avanti, quando siamo arrivati già nel 1991-92, si erano esattamente invertiti i ruoli. Cioè, io ero quello che poi doveva tenere, tra virgolette, diciamo, tirare le fila di quello che succedeva, e lui era il pazzo scatenato della situazione. Quindi a un certo punto si invertirono completamente i ruoli. E credo che la sua forza sia stata quella, cioè la nostra forza sia stata quella di essere così completamente opposti da trovare sempre un punto di sintesi, no? per forza di cose, in un luogo indefinito tra me e lui, cioè in uno spazio immaginario tra me e lui, distanti anni luce. E questo persiste ancora oggi, cioè nel senso, anche in una semplice conversazione, nel momento in cui ci troviamo, per noi non è passato tempo, cioè non guardiamo mai al passato, non abbiamo mai parlato di una cosa che ci è successa allora, no? Cioè, ogni volta che ci scriviamo, che ci parliamo, che ci vediamo, e continuiamo a parlare del presente e del futuro. C'è un tempo per i baci sperati, desiderati, tra i banchi della prima B, occhiali grandi, sempre gli stessi, un po' troppo spessi per piacere ad una così. Nell'ora di lettere, guardandola riflettere sulle domande, tranello della prof, non cascare. altri amici che rientrano anche in questo Max 20, che sono Lorenzo Cherubini, che sono insomma il vecchio mondo di DJ Television. Sì. Una botta di nostalgia anche per noi, a volte viene la sensazione così un po' di rimpianto, altro che nessun rimpianto, a guardare indietro e a rivivere, forse perché avevamo 20 anni di meno, ma quei momenti creativi lì. Ma io credo che poi quella generazione, ossia quella scuderia, aveva, secondo me, è arrivata a un certo punto nel mondo della radiofonia, dello spettacolo, è arrivata come un uragano, ha investito tutti e tutti gli aspetti dello spettacolo e della comunicazione, e soprattutto credo che in quel periodo ci sia stato insegnato a tutti noi che eravamo parte di quel gruppo, la cosa più incredibile e più comune, secondo me, tra di noi è una sorta di rispetto, non di timore, ma di rispetto nei confronti del pubblico, che non vuol dire captarne la benevolenza, temerlo e quindi aver paura che possa... No, è continuare a pensare che là fuori non ci siano dei numeri, ma delle persone. Sento il cuore che mi rimbalza in bocca, e tu, con un body a balconcino che ti tiene su, un seno che così non si era mai visto prima. Sei un mito, sei un mito per me. Sono anni che ti vedo così raggiungibile. A proposito della Factory, di questa Factory creativa, una di queste voci è quella di Fiorello, anche nel tuo disco e nelle frasi che accompagnano la presentazione dell'album. Lui dice che ogni tua canzone è un film, ma non ci credo che nessuno non ti abbia proposto, al di là insomma di Jolly Blue, in questi anni, di girare un film, di fare l'attore o anche solo di scrivere una colonna sonora, perché il tuo immaginario è molto vicino a quello cinematografico. Ma clamorosamente no, non è mai successo, nel senso che probabilmente ci sono delle dinamiche per cui insomma probabilmente sarebbe anche difficile. Poi anche il cinema sta vivendo delle situazioni piuttosto complicate dal punto di vista insomma delle disgrazie economiche. Sentivo gente insomma che si lamentava parecchio, però mi piacerebbe molto, perché è un immaginario che mi appartiene. Io penso le storie, cioè io penso le mie canzoni per immagini, non riesco a pensarle per parole. Ecco, questa è un'altra mia caratteristica, non riesco, cioè per me il tessuto su cui scrivo poi i testi è comunque qualcosa di visivo. Io ho bisogno di visualizzare, altrimenti non mi viene niente. Ho bisogno di vivere fisicamente la cosa che sto raccontando e di poterla collocare in uno spazio, in un tempo ben definiti, perché se no non riesco ad astrarmi più di tanto e ad astrarre la storia più di tanto. Quindi ho bisogno proprio di, e quindi forse sarei abbastanza predisposto a un rapporto con l'immagine. I ricordi che sembrano lame fanno male, ma forse li cerco io per rivivere, per ricordare ogni istante accanto a te. Una vita accanto a te. Non so se lo sai, ma tanti anni fa, una ventina d'anni fa, quando cominciavate a scrivere le canzoni, in tanti non ci credevano che foste veramente voi a scrivere. Secondo te, 20 anni dopo, la critica è conquistata? Ormai l'immaginario pop di Max Pezzali è riuscito a fare il salto di qualità nella percezione dei critici? Ma io credo che in linea di massima, non lo so e non credo che sia più importante più di tanto. Cioè, nel senso che lo era forse allora, però io credo che... ossia... a me è capitato di scrivere tanto di musica, no? Perché anche se non lo faccio di lavoro, però mi è capitato diverse volte di scrivere degli articoli riguardanti la critica musicale e cercando di raccontare qualcosa di un disco, di un concerto che avevo visto, e mi sono reso conto che l'approccio mio forse non è quello del critico, nel senso, io per una mia deformazione mentale cerco sempre di trovare qualcosa che mi piace. Cioè io cerco una, diciamo, un'empatia con quello che sto guardando, e questo mi fa passare in secondo piano le cose che non mi piacciono, che inevitabilmente ci sono in una canzone o in un act. Io cerco di lasciarmi andare e di farmi coinvolgere dalla cosa. È chiaro che se tu guardi un concerto o ascolti un disco e dici però quell'assolo mi sembra un po' ridondante, oppure il suono degli archi sul terzo pezzo era probabilmente un po' più alto rispetto a tutto il resto, a quel punto lì non ti stai lasciando andare alla cosa. Io credo che il problema grosso riguardo alla critica musicale sia proprio questo, cioè non puoi scrivere di cose che non ti piacciono a prescindere, perché non ne uscirai mai vivo, non troverai mai nulla che ti piace e ti convince. Se tu invece hai la curiosità del neofita e non la diciamo la supponenza del critico, allora riesci a trovare, vai a cercare qualcosa che ti piace, perché il discorso è questo: devi essere un entusiasta. Se non sei un entusiasta non puoi fare puoi fare il critico, ma diventi di un trombonismo, cioè che ancora mi vai a citare le Zeppelin e tutto a posto, per l'amor di Dio, però la musica non si ferma al 1971, ringraziando di Dio accadono ancora altre cose. E più entusiasta di Max Pezzali pochi. Ah, da questo punto di vista sì, perché mi diverto ancora, cioè per me io vado a cercare il divertimento, non vado a cercare il pelo nell'uovo altrui, cioè nel senso, io voglio divertirmi, io devo, se ascolto qualcosa devo dire porco Giuda, ho trovato quella cosa lì che mi ha divertito particolarmente, non ne ho trovate tre che non mi hanno divertito. Cioè per me la scoperta è qualcosa di positivo, è anche solo un dettaglio positivo, non tre cose negative. Non c'è niente di divertente in tutto questo. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. 140 caratteri torna ogni domenica alle 8:30 e 19:30.